Sì, perché c'è una parte importante appunto anche di multimedialità, c'è un software installato con la possibilità di mettere sia un navigatore satellitare o qualcosa di simile, sia un'applicazione ulteriore per tutta una parte culturale magari, no? Certo, diciamo qui presentiamo una demo dove è possibile vedere su schermo touch l'interfaccia della macchina e quindi avere tutti i dati di autonomia oraria, chilometrica, di velocità, integrazione col GPS e dopo è possibile per i noleggi di un certo livello anche andare a integrare i percorsi diciamo sul navigatore con delle informazioni aggiuntive, come dicevi te, di carattere culturale oppure turistico, ecco. Ed è ecocompatibile quasi al 100%? Al 100% in quanto lo scafo è riciclabile, l'eventuale tech è un simile tech PVC riciclabile e tutto il resto sono materie prime riutilizzabili in un secondo tempo. E non emette CO2? Certo, è elettrica quindi. Questo orizzonte delle apparecchiature e degli strumenti completamente riciclabili è veramente interessante, Chiara, perché può sembrare strano, ma anche le automobili si pensano come delle cose che potrebbero essere completamente... Sì, infatti si pensa che magari il riciclabile sia fatto di cartone o comunque di qualche materiale poco duttile e inaffidabile, ecco. Esatto, infatti il nostro, siccome anche gli aerei potrebbero essere progettati in questo modo, il nostro regista non era tanto detto, ci voli tu d'accordo, su quelle, invece no, potrebbero essere assolutamente efficienti, stabili, vuol dire che assolutamente sono... esatto. No, su questo non abbiamo dubbi. Solidi. Anche l'imbarcazione che abbiamo visto a Smau era assolutamente un'imbarcazione normale a vista. Poi ovviamente, come ci ha spiegato, era fatta di materiali che si potevano riciclare, completamente ecocompatibile. E il mestiere dello sfasciacarrozze, per esempio, per quanto riguarda le auto, cambierà completamente, sarà un mestiere sofisticatissimo. Anzi, altamente tecnologico. E adesso invece, lasciando Smau e in attesa di andare a Genova, vi racconto di una ricerca piuttosto interessante nella quale insomma si scopre che il pollice opponibile non è fondamentale per effettuare una buona presa. Il nostro pollice, la nostra mano, ne lo sono indice, medio, anulare e mignolo, insomma tutte le dita. Eric Brown dell'Università di Chicago e il suo gruppo hanno creato un braccio robotico in grado di fare tutto. Serve bevande, afferrare attrezzi, disegnare immagini, anche senza le dita. Indice e pollice funzionano perfettamente per l'uomo, appunto sottolinea Eric Brown, ma su un robot sono poco pratiche, un impaccio, insomma, in poche parole. Non è proprio tollerabile che al robottino scivolino gli oggetti dalle mani. Può capitare anche che stringa troppo la presa, che rompa tutto quello che sta cercando di tenere. Se sbagliare è umano, certo non vale lo stesso principio per i robot. E poi subentrano tutte le difficoltà degli scienziati che devono manipolare 20 e rotte articolazioni con un computer. Questa non è certo una cosa facile. Così Brown e i suoi colleghi hanno deciso di intraprendere una strada diversa, la mano robotica senza dita. La loro creazione è un sacco di gomma sottile riempito di chicchi di caffè oppure di sfere di vetro di piccole dimensioni, che funziona così. Quando viene a contatto con un oggetto, un piccolo tubo aspira aria dal sacco, che si contrae e cosa succede? Si modella intorno alla forma da prendere. La contrazione è poca e minima, la manina ha una variazione solo dell'1% di volume, ma questo basta per afferrare la maggior parte degli oggetti che appunto i ricercatori hanno già testato, e sono tanti. Il vantaggio è che questo metodo è molto semplice da controllare, non si hanno infatti tante articolazioni da gestire, ma una sola, come dicevo prima. La nuova mano, che ricorda un po' i guanti a moffola, o meglio ancora una pinza arrotondata, funziona meglio con oggetti duri e asciutti e con forme geometriche un po' complesse, perché certo queste hanno diverse zone alle quali attaccarsi. Più problematici invece gli oggetti piatti, come i dischi di plastica, oppure porosi, come batuffoli di cotone, beh certo, perché in questo caso l'aria che passa dai fori indebolisce l'aspirazione. Altro limite è il peso dell'oggetto da prendere. Per il momento due brocche da circa 4 litri ciascuna sono il massimo che il robot riesce a sollevare, però in fondo non è poco. Per risolvere il problema degli oggetti porosi si potrebbe pensare di rendere la mano saccottino, chiamiamola così, vischiosa, però poi si porrebbe il problema del rilascio

Mi chiedo cosa avrebbe potuto dire Taleb ieri invece alla conferenza che appunto parlava di economia, ma dell'economia come scienza, come previsione. Infatti io proprio ho chiesto a Francesco Guala, che era per metà economista sperimentale appunto che fa questo tipo di previsioni e per metà filosofo della scienza dell'Università degli Studi di Milano. La prima cosa che gli ho chiesto è appunto se l'economia fosse una scienza. Certo, sì, l'economia è scienza perché la scienza è fatta di tante cose diverse e l'economia è una delle tante discipline con dei problemi diversi dalle altre discipline scientifiche e altri problemi, altre questioni invece simili a quelle che trattano le altre discipline scientifiche. Quindi la scienza purtroppo è una cozzaglia di tante cose che un po' si assomigliano ma un po' sono anche diverse. Comunque l'economia è una scienza perché cerca di fare quello che fanno le altre scienze, cioè per vedere e migliorare il mondo in cui viviamo. In tanti le avranno chiesto se l'economia è una scienza perché non è riuscita a prevedere la grossa crisi finanziaria. Io lo so, lei sta ridendo, ma questa domanda dovevo fargliela. Sì, perché è molto difficile farlo, perché innanzitutto l'informazione che è necessaria per prevedere quando si sarebbe verificato quella crisi non era a disposizione, perché appunto sappiamo che per esempio molti dei subprime mortgages erano sconosciuti perfino alle banche che li avevano finanziati. L'altra questione è che non è vero innanzitutto che la crisi non era stata prevista, cioè molti economisti avevano detto già da tempo che ci sarebbero stati dei problemi. Io ricordo benissimo quando ho comprato la mia prima casa, che stavo in Inghilterra circa 10 anni fa, ero ben consapevole del fatto che molti miei colleghi, ma anche sui giornali, si sosteneva che c'era già una bolla nel mercato immobiliare, che questo avrebbe provocato dei problemi. È vero che nella stanza dei bottoni, dove c'erano le persone, fra cui anche degli economisti, che avrebbero dovuto cercare di prevenire la crisi, non, evidentemente sono stati commessi degli errori. Ma l'idea che l'economia nella sua interezza non sia stata in grado di prevedere la crisi è, credo, semplicistica. Poi abbiamo capito che tante cose sono prevedibili, ci sono tanti casi di successo in cui è stato possibile prevedere l'esito del mercato e altri casi in cui obiettivamente l'insuccesso era... Di solito appunto la differenza fra i casi di successo e quelli di insuccesso sta proprio nella mancanza o nella disponibilità delle informazioni necessarie per fare le previsioni e nella complessità del sistema che si sta studiando, cioè quando effettivamente gli economisti hanno la possibilità di disegnare i mercati, il sistema di regole che governa i mercati in modo tale da ottenere certi risultati, non sempre ma molto spesso ci riescono. Appunto, prima durante la conferenza ho citato alcuni casi come per esempio quelle delle aste per le telecomunicazioni, che sono stati degli esempi di grande successo in cui è stata proprio la teoria economica e anche l'economia sperimentale che ha aiutato a ridisegnare questi mercati in maniera efficiente. Altre volte il problema è molto più complesso e noi non abbiamo la possibilità di intervenire sul sistema stesso in modo tale da appunto creare una struttura di regole tale per raggiungere gli scopi che ci prefiggiamo, e in questi casi è anche molto difficile prevedere l'evoluzione di questi sistemi complessi. Ecco, per i non esperti ci spiega di che cosa si occupa questa economia sperimentale e che ruolo ha appunto in questo tipo di previsioni? L'economia sperimentale è un tentativo di rendere la scienza economica più simile alle scienze che fanno uso di esperimenti di laboratorio in situazioni controllate. E quindi sì, come i fisici fanno degli esperimenti di laboratorio nel quale sono in grado di preparare delle condizioni iniziali per ottenere certi effetti sperimentali, così si fa anche nel laboratorio, però con degli esseri umani, cioè ci sono dei soggetti, delle specie di cavie che per esempio scambiano titoli su dei mercati sperimentali, nel quale lo sperimentatore può provare a cambiare appunto alcuni parametri, alcune variabili, in modo tale da vedere quali risultati si ottengono. E questo ci permette appunto di capire come funzionano dei sistemi molto semplici, chiusi, che poi necessariamente sono difficili alle volte da generalizzare ai sistemi complessi che troviamo nel mondo reale, ma altre volte ci aiutano magari a cambiare i mercati del mondo reale in modo tale che assomiglino di più a questi sistemi sperimentali chiusi,

in un compito mettiamo degli occhiali, che sono delle lenti prismatiche, e quando e chiediamo al soggetto di fare un movimento dritto e veloce verso il mio dito, che sarà posto di fronte a lui. Quando mettiamo questi occhiali, i soggetti sbagliano sistematicamente, nel senso che il loro dito va più a destra del mio dito. Non riescono ad andare a toccare il mio dito. Questo perché? Perché queste lenti inducono una deviazione del campo visivo verso destra. Dopo un po' che uno prova a fare il movimento, corregge automaticamente, spontaneamente questo movimento e va a toccare giusto il mio dito. La cosa divertente è che se io tolgo gli occhiali e quindi riporto una situazione normale, chiedo al soggetto di fare un movimento, a quel punto lui continua a sbagliare ma in direzione opposta, cioè va verso sinistra. Questo perché? Perché il suo sistema sensorimotorio ha interiorizzato la correzione che lui ha prodotto durante l'esposizione prismatica, così si chiama questa esperienza, e se la porta dietro per un certo periodo di tempo. Dopo poche prove ricorregge e ritorna normale. Questo cosa succede? Abbiamo ingannato il sistema visivo senza che lui lo sapesse. Il sistema motorio si è adattato e come conseguenza ci portiamo dietro una correzione di cui siamo totalmente inconsapevoli. Ecco, noi non lo sappiamo che questo succede. Più che altro mi hanno ingannato, ossia hanno nascosto una mano e credo alla fine il fatto che tu vedi qualcosa ma non lo percepisci fisicamente sulla mano, e quindi è una cosa molto strana. Questa cercavamo di riprodurre quello che si chiama illusione della mano di gomma o illusione della mano finta. Sostanzialmente noi diamo uno stimolo tattile sulla mano vera del soggetto, che è invisibile, quindi il soggetto non la vede. Contemporaneamente tocchiamo una mano che è finta, è una mano di un manichino. Questo fa sì che dopo un po' di questa stimolazione visiva sulla mano finta e tattile su quella vera, il cervello fonda i due canali informativi, tatto e visione, e la soluzione di questa fusione è la percezione che la mano finta sia la propria mano. Viene incorporata, si dice tecnicamente, nella propria rappresentazione corporea. Per cui se per esempio noi chiediamo ai soggetti di localizzare dov'è la loro mano nello spazio, loro tendono a mispercepire, a fare un errore di percezione verso la mano finta, un errore di percezione rispetto alla loro mano vera. Cioè voi punzecchiate la mano finta e il soggetto sente in realtà la punzecchiatura sulla propria, quasi. Questo succede solo se i due canali sensoriali sono sincroni, cioè se noi tocchiamo la sua mano e la mano finta contemporaneamente. Questo fa sì che il cervello li metta insieme. Se invece vengono le due stimoli vengono dati in maniera desincronizzata, questa illusione non si forma perché il cervello non è ingannato. In un altro esperimento proviamo a trasferire questa cosa dell'illusione della mano finta alla faccia, per cui il soggetto è messo di fronte a un computer, vede la faccia di un'altra persona che viene stimolata tattilmente sulla guancia e contemporaneamente noi accarezziamo la sua guancia. Prima e dopo questo esperimento gli facciamo vedere un video in cui lui vede la faccia dell'altra persona trasformarsi progressivamente nella sua e deve dire quando vede la sua faccia. Allora, se noi lo facciamo prima e dopo questa esperienza, il soggetto dopo l'esperienza tende a fermare prima il video, cioè a riconoscere se stesso prima nella faccia dell'altro. Questo perché? Perché questa stimolazione sincrona visotattile sulla sua faccia e sulla faccia dell'altro ha fatto sì che lui in qualche modo percepisse la faccia dell'altro come la propria, e questo si può misurare percettivamente come questo errore di percezione. Che scherzetti il nostro cervello. E poi l'altro che dicevi? Dunque, un altro esperimento, questo è un esperimento che poi ha delle forti applicazioni cliniche. E il concetto è questo, che da tutta questa messa insieme di informazioni multisensoriali, il nostro cervello elabora delle rappresentazioni del nostro corpo. Delle rappresentazioni del nostro corpo che servono o per fare delle azioni o anche per percepirci, per sapere noi come siamo fatti, come siamo. Allora noi testiamo, valutiamo, misuriamo sperimentalmente come le persone percepiscono il corpo. E lo strumento funziona in questo modo. Facciamo una foto di un soggetto a schermo intero, a corpo intero, lo carichiamo in un software che si chiama Body Image Revealer, che è stato fatto da un psicologo cognitivo di Trieste che si chiama Emanuel Mian. Questo software deforma l'immagine del soggetto rendendola o magrissima o cicciolissima. Chiediamo al soggetto di modificare, di usare due tasti per fare l'immagine che sta vedendo o allargarla o renderla più sottile, fino a quando questa immagine non corrisponde al modo in cui egli pensa di essere, sente di essere, che sono due cose leggermente diverse, vorrebbe essere e pensa che gli altri lo vedano. E che succede? Dunque, succede che tendenzialmente siamo abbastanza precisi. Non siamo per niente precisi quando ci chiediamo come vorremmo essere. A questo punto c'è una distorsione sistematica delle ragazze che vorrebbero essere molto più magre, magrissime. Questo sembra un giochino, ma è molto importante per, ad esempio, per studiare i disturbi alimentari e la rappresentazione del corpo in disturbi alimentari. Un'altra cosa simpatica che stiamo facendo è provarlo in modo transculturale, cioè abbiamo testato delle ragazze delle isole del Pacifico, del Sud Pacifico, e abbiamo visto che in realtà questi bias così evidenti non ci sono, insomma, sembra una cosa molto culturale.

Ti chiederei di spiegarci, per quanto è possibile in radio, la scenografia, che è veramente particolare, ispirata appunto al piano inclinato di Leonardo, ma che è in continua evoluzione. Allora, intanto si tratta di uno spettacolo di physical and visual theater, cioè è anche molto visuale, quindi non è facilissimo spiegare il movimento e l'immagine per radio. Comunque sono delle strutture triangolari che quindi hanno un piano inclinato e due piani ortogonali che si compongono e si scompongono durante lo spettacolo. Quindi questi sei elementi triangolari che vengono utilizzati e mossi dai danzatori durante lo spettacolo si uniscono e man mano creano delle forme nuove, con i danzatori che quindi agiscono sia all'interno di questi triangoli che all'esterno. Tutto questo raccontando una storia, e quindi diciamo che si segue il racconto attraverso questi sei elementi fisici, perché sono di legno, sono di pelle, sono di cuoio, che piano piano si compongono e scompongono. Nel vostro spettacolo c'è quasi anche un po' la personalità di Leonardo, che è creatività e scienza insieme, anatomia e estro artistico quasi incompreso anche ai più. Ma guarda, lo prendo come un grandissimo complimento. La cosa che a me ha sempre intrigato del pensiero di Leonardo è proprio questa, il fatto di aver messo insieme sempre tantissime componenti, però ognuna di queste, quindi anche un Leonardo scienziato, quindi apparentemente molto tecnico, ha sempre, almeno a me, ha sempre dato comunque una grande emozione, ed era questa emozione qua che mi ha sempre sorpreso, come potesse esprimerla attraverso un dipinto così come attraverso un bozzetto tecnologico. E quindi insomma, diciamo che in questo spettacolo io ho cercato di metterci tutte queste componenti. Love Machines significa proprio questo, una macchina, ma una macchina capace di amore. Ogni promessa va mantenuta. Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato molto velocemente qua a Mebius di una scoperta piuttosto importante che vede il Politecnico di Milano coinvolto e che aveva raggiunto le pagine di Nature, che è sempre un po' il paradigma della ricerca più importante scientifica a livello mondiale. E vi avevamo promesso però di approfondire il tema che riguardava appunto questa ricerca. Ed ho qui con me questa sera Dario Polli. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera agli ascoltatori. Politecnico di Milano, e di quale dipartimento fa parte? Dipartimento di Fisica. Dipartimento di Fisica. Allora, il vostro lavoro era concentrato, ed è concentrato, sulla visione ed esattamente su ciò che avviene nel nostro occhio, proprio nella zona che riceve il segnale luminoso dall'esterno e quindi che riceve le informazioni dal mondo. Qui che cosa si sapeva, che cosa ancora non si sa, che cosa accade qua? Allora, essenzialmente sulla nostra retina c'è una molecola che è il nostro sensore luminoso che permette di vedere il mondo attorno a noi. Questo sensore è all'interno di una tasca proteica ed è piegato ad L. Quello che si sapeva è che la luce viene assorbita da questa molecola che come prima cosa si ruota, gira per allungarsi e mettersi in una configurazione dritta. Ecco, questo... senta, qui abbiamo proprio dei movimenti meccanici, parliamo di molecole, parliamo di chimica, ma poi abbiamo proprio queste molecole che si muovono come se fossero dei meccanismi, no? Sì, sì, è proprio come un grilletto che fa scattare una reazione, è un processo molto complesso che poi richiede tutte delle reazioni chimiche e biologiche, ma il primissimo evento è proprio questo movimento che coinvolge questa molecola. Sì, che viene poi raggiunta dal segnale luminoso e si muove, si apre. Esatto, si apre, e questo fa partire poi una serie di processi che arrivano fino all'impulso nervoso che viaggia lungo il nervo ottico fino al cervello. Noi abbiamo visto proprio come è possibile che la luce arrivi a questa molecola, venga assorbita da questa molecola, e come ci sia il trasferimento dell'energia dall'energia luminosa della luce ad un'energia meccanica, chimica, di movimento che inneschi questi processi fotochimici. Perché il tutto deve avvenire con tempistiche impressionanti, immagino. Esatto, esatto. Sono dei tempi molto brevi che si fa fatica a pensare, perché il tutto è concluso dall'assorbimento di una particella di luce in pochi milionesimi di secondo. E questa tempistica dà la grande efficienza del nostro occhio. Esatto, senta, fa capire quanto sia difficile poi misurarlo praticamente tecnologicamente. E infatti adesso ci arriviamo subito. Queste molecole sono distribuite su una... Dove stanno esattamente? Sul fondo, sulla retina? Sì, stanno sulla retina, dentro ai coni e bastoncelli che sono i nostri sensori per la luce notturna in bianco e nero e per la luce diurna a colori. E che nome ha questa molecola? Si chiama rodopsina. Rodopsina. Va bene, allora adesso invece viene fuori il vostro lavoro. Voi dovevate riuscire a misurare questo movimento della molecola che si apre e fa passare il segnale. Abbiamo fatto proprio una specie di filmato in tempo reale di questo movimento, come una macchina da presa che fotogramma dopo fotogramma registra il movimento di un oggetto. Noi abbiamo tanti fotogrammi molto molto ravvicinati, uno dopo l'altro a pochi milionesimi di miliardesimi di secondo uno dopo l'altro, che seguono il movimento della molecola e vedono effettivamente come questa si ruota all'assorbimento della luce e permette queste reazioni. È un po' come l'effetto stroboscopico. Esatto, perché come 100 anni fa è stato possibile con dei flash della macchina fotografica molto brevi immortalare dei movimenti molto rapidi, quali la fase aerea di un cavallo che nel galoppo sostiene tutte e quattro le zampe in aria, oppure quelle famose foto dove il proiettile buca la mela, così noi abbiamo rallentato, accorciato ancora di più il flash della macchina fotografica utilizzando dei flash di luce generati da dei laser. Noi siamo esperti di laser e il nostro scopo principale è proprio quello di costruire dei laser che emettano degli impulsi di luce brevissimi, della durata appunto di pochi miliardesimi di milionesimo di secondo. Questa è la sorgente di luce con cui illuminiamo, facciamo partire questa reazione chimica e ne seguiamo l'andamento nel tempo. E lì che cos'è che avete visto? Intanto io qui sto usando il termine visto, ma avete poi di fatto ottenuto delle immagini oppure il segnale, insomma il comportamento della molecola lo ricavate in modo indiretto? Beh, è un'immagine indiretta che... sono delle immagini, dei filmati dove però quello che si vede non è effettivamente come sotto un microscopio il movimento reale, ma sono dei segnali che ci indicano quello che è successo. Infatti l'interpretazione di quello che abbiamo misurato noi è accompagnata da delle simulazioni al computer che verificano che quello che abbiamo misurato è proprio quello che deve accadere per questo movimento della molecola. Simulazioni e esperimento vanno di pari passo e le due risultati sono perfettamente sovrapponibili e quindi questo ci ha permesso di capire che effettivamente quello che abbiamo misurato è quello che abbiamo capito. Cioè con i flash, diciamo così, anche se non è molto rigoroso, i flash via laser, voi ricavate certi dati che poi, fatti passare attraverso un'elaborazione via computer, vi comunicano esattamente il fenomeno che c'era sotto e quindi potete misurare i tempi di apertura, di movimentazione, insomma, di questa... Esatto, di questa, e infatti questa... poi col computer è stato proprio realizzato invece a questo punto un filmato vero e proprio con una specie di ingrandimento di milioni di volte dove si vede questa molecola che si muove nel tempo, il filmato dura un minuto, questo minuto in realtà fa vedere a tempo rallentato di milioni di volte il movimento reale della molecola che è stato simulato al computer. Va bene, a questo punto il risultato assolutamente significativo è che abbiamo capito com'è che avviene questo fenomeno, soprattutto in quali tempi avviene, era questo il dato principale. Esatto. Allora, il processo è concluso in 200 milionesimi di milionesimo di secondo. E questo lo fa il nostro occhio, questo è veramente sorprendente. Siamo una macchina con prestazioni impressionanti, direi. Sono molto più rapidi di qualsiasi computer oggi esistente al mondo e sicuramente la natura è impressionante per questo punto di vista. E ancora complimenti per la ricerca e buon lavoro. Grazie, altrettanto, arrivederci. Per coloro che sono qui a Genova o qui vicino e per tutti quelli che nei prossimi giorni fino a martedì fanno un salto al Festival della Scienza, noi saremo al grande stand dell'Enel, proprio lì sul porto, sono 800 metri quadri, non potete non vederlo. Ci siamo con una serie di esperimenti dedicati a capire in che modo funziona la nostra mente, per esempio cosa succede se vi facciamo mettere una mano in una strana scatola con degli specchi che vi fa vedere la sinistra come la destra, le inverte, insomma, oppure